Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brothers? Can you see the new? See the new? Allora, ho visto l'ultimo punto della nazionale italiana femminile contro la nazionale del Costa Rica o della Repubblica Dominicana, non ricordo, adesso sto confondendo perché, come ben sapete, non ne sono un appassionato, però si parla di pallavolo. Ho visto il loro ultimo punto che ha portato la vittoria alla selezione italiana, quindi un secondo, poco più. Dopodiché mi sono così casualmente, perché appunto stavo passando di lì, nulla più. La scherma. Allora, la scherma, sport nobile, gli sport sono belli tutti, per carità, però insomma alcuni da vedere sono abbastanza particolari. La scherma ha una velocità incredibile, una difficoltà di comprensione, anche nonostante i replay, nonostante anche la, ammetto la mia grave incompetenza, poi magari la pratica. Ad esempio il tennis per me da vedere un po', da giocare è stupendo. Ecco, vedi due atleti completamente bardati, collegati a un elettrodo con due estremità, e in pochi secondi saltellano come grilli, poi a un certo punto uno esulta e l'altro protesta e un arbitro decide a chi va il punto. Ecco, questa è quella che è la percezione della scherma, che, come ho detto, è uno sport più che nobile. Tra l'altro, purtroppo, mi pare che l'Italia abbia deluso un po' le aspettative per quanto riguarda questa nobile arte anche, no? Abbiamo parlato del duello dal Sole 24 Ore nelle scorse puntate, però veramente ha una risposta visiva per chi assiste a questa competizione abbastanza così particolare, ecco, inconsistente. Around in the dark, take a gear out of park. Puts it into first and not reverse when things get worse. Hawk, the Herald New School poet on the mic. Beh, attendo anche il vostro aiuto, grazie Lino intanto, grazie Matteo, grazie Fabio. Aspetto anche il vostro aiuto non solo per quanto riguarda il quiz che a breve porterò per avere le lupe di Boulogne-Archejac. Che tipo di lettura è? È quella lettura d'estate, ma di una qualità immensa, ve lo assicuro, di questa coppia di scrittori. Grande ispirazione anche per Hitchcock, ho già letto praticamente di loro, leggete tutto, e da Adelphi le loro ristampe con I Diabolici, I Volti dell'Ombra, La Donna che visse due volte, vi dice qualcosa, e Le Incantatrici, sono i titoli usciti per questa coppia francese di scrittori. Le Lupe, guarda un po', esce a cavallo tra luglio e agosto ed è una lettura per l'estate che altro che non vi deluderà. Se non li conoscete, se avete ancora più di me, che non sono esattamente un appassionato di gialli e di noir, se però avete questa passione nell'ambito letterario, quasi vi obbligo a leggerli, Lo so, Lino. Grazie a Paolo Zanardi ho avuto al Mood Groove il caro amico Eugenio Capone. Sai che lui è il più alto, si chiamano schermidori, tiratori di spada nella scherma o di fioretto, non so adesso le diverse specialità, però lui è il più alto atleta di scherma del mondo. Lui è 2,13, è un ex cestista. Sai chi è nazionale over di scherma? Eugenio Capone, quel lungo che giocava in Fortitudo a metà anni 80. Lo so bene, giocava con me. Comunque, per avere grazie Lino intanto comunque per avere la coppia Boulogne Chejac, le lupe. Grazie anche a quello che abbiamo trovato come motivo di polemica. Grazie. Grazie, perché poi si fanno ridere dietro, hai capito? Quando dicono l'integralismo, che è veramente al pari in ogni religione, quando diventa integralismo e non più spiritualità, è qualcosa di tremendo nella spiritualità, nella fede, nel sacro, c'è anche di culturale, di profondità, che per me è fondamentale. Quando diventa integralismo è motivo di scontro, di distruzione, lo vediamo, no? È questa accusa, l'ultima cena ripresa in questo modo. Ma non vi vergognate, ma che figura da ciucci che avete fatto, ma mamma mia, aiuto! Allora, leggendo ampissimo approfondimento su Alias, molto molto bello, questo è il numero di Alias, edizione del sabato, per me il più bello che è uscito in tutto l'anno. Conserverò questo numero perché, ok, il titolo è Les Jeux sans fée, preso dal francese, le Olimpiadi sono a Parigi, alla luce del complesso panorama geopolitico in cui si svolgono i giochi, caccia ai migranti, atleti, rifugiati, aggiungo paesi ai quali è negato addirittura l'inno nazionale, paese al quale è negato poter indossare la rappresentanza, la divisa del loro paese. Questa è una grandissima vergogna, perché lo sport è un'altra cosa, come ben sappiamo, ma già siamo abituati a queste manifestazioni, e molte volte le Olimpiadi diventano uno strumento per attaccarsi a tutto ciò, ed è veramente una vergogna. Comunque, anche perché è per questo poi che con lo sport io comincio ad avere motivo più di distacco. E poi gli sport emergenti, le Paralimpiadi, mitologia, attualità. E la lotta della pioniera Millià, che è stata la prima donna a partecipare alle Olimpiadi, e pensate, lei non è che fosse un'atleta eccellente, ne parleremo comunque in approfondimento, io non la conoscevo, non era un'atleta così eccellente, però è stata una grande attivista per lo sport, per tutte. Le ombre sul barone de Coubertin, eh sì, infine tutta la musica ispirata ai giochi, e ce n'è come. The Herald News School poet on the mic sings. Got to see the new ways you can pull strings. In order to get what you want out of this life, strife must end. Put the pen to the paper, the shaper. Things to come can be pleasant if only me and you break free, break through. See the new, see the new. See the new. Can you see it, my brothers? Can you see the new? L'idea del memorial, quante volte abbiamo sentito il memorial in ambito di tornei, di confronti, di competizioni? Il memorial, beh, il memorial Resto nella nostra città per i Giardini Margherita, a Walter Bussolari, per il torneo dei Gardens, lui importante organizzatore, appassionato, scusate, personaggio nell'ambito dello sport per tutte e per tutti, per il coinvolgimento, una figura fondamentale nell'organizzazione di questo importante torneo, ed è stato dedicato appunto. E come i giochi sono nati per essere dedicati a grandi eroi, beh, c'è qualcosa che va ancora più indietro a tutto ciò, pensate, e il protagonista è l'eroe che vi porterà le lupe di Boulogne Chejac. Lo scrive Omero nell'Iliade che un amico di questo eroe, quando dopo questo gesto bellissimo, molto eroico, ecco, questo suo amico viene ucciso da un avversario, beh, talmente sofferente che dice: dedico un memorial, dedico dei giochi a questo mio amico eroe. Potranno partecipare anche i bambini, farò dei giochi, chiedo agli dèi di essere propizi in tutto ciò, faremo dei giochi, faremo, oggi lo chiameremo un memorial dedicato a lui. Chi era questo eroe che nell'Iliade vi dico, viene ucciso per mano di Ettore, intanto, quindi già vi ho dato qualche indizio più importante. Metto un po' di musica così avete modo di rileggervi l'Iliade dall'inizio alla fine, no? È meglio di no, anche perché già che ho detto è stato ucciso per mano di Ettore. No, Jarno, lui viene ucciso da Ettore, e quando ci sarà il confronto invece con l'eroe greco che tu hai appena scritto, lui lo vendicherà. Sei firmato, sto cercando un po' di cronologia, si dice così, vediamo che devo avvicinarmi. Domenico, dico bene, firmati però, perché io già ci vedo poco. I giochi in onore di Patroclo organizzati da Achille. Esattamente, molto bravo Domenico, bravo anche Jarno, ma arriva un po' dopo, dice Patroclo, giustamente. Dopodiché, Lino, grazie Lino. Patroclo e Achille, l'amico, giustamente, che organizza i giochi. Ma io quasi quasi porto un po' di libri mercoledì e li regalo al Comini Express, perché ve li meritate davvero, grazie. Intanto sicuramente di Buono Narcejac, Le Lupe, se non hai mai letto niente di questo duo, domenico sarà un'ottima occasione, come si suol dire, non mi tiri di certo degli accidenti, questo te lo garantisco. Perché Agamennone cosa fa? Rapisce la schiava preferita di Achille, Briseide, e Achille ovviamente resta tremendamente deluso da questo, dice ma come, ma pensa te questo, cosa combina, fa un gesto bruttissimo, insomma, già di per sé. Poi io non combatto più, io entro in sciopero, io che praticamente sono il Larry Bird della situazione, decido che non entro più in campo in questa guerra, non ne faccio più parte. Ma come? Patroclo ci rimane malissimo, dice ma tu sei l'esempio, ma no, non ne voglio sapere, sto talmente male per tutto ciò, guarda, che a parte che tra Patroclo e Achille si narra anche, ma vabbè, ci sta, ci fosse del tenero, un idillio, chiamiamolo così, va bene così. Sapete cosa fa Patroclo? Patroclo prende l'armatura, le armi, si, non dico traveste, però dà un esempio, tipo un Willis Reed, scende in campo lo stesso, adesso l'esempio è un po' forzato, però va a combattere lo stesso, nonostante, per dare l'esempio, e dalle retrovie dicono, no, guardate, tranquilli, il nostro numero uno c'è, e come, è presente, sta combattendo per noi, in realtà è Patroclo. Che chiaramente non è forte come il titolare, ci mancherebbe, scusate questi temi e questi toni da Moved to Groove, però insomma è per rendere l'idea. Poi i classici e il mito sono di una bellezza, e viene ucciso per mano di Ettore. Achille si arrabbia talmente tanto che il suo amico ha fatto quella fine, e l'ha fatta per incoraggiare quelli che lui aveva abbandonato. Pensate cosa fa, ritorna sul campo di battaglia, e quando dovrà sfidare Ettore avrà motivo di prendersi una sanguinosa vendetta. Funerali organizza questo memorial, organizza dei giochi in onore, pensate, questa che è una tradizione sacra, è una tradizione mitica, così come è stata trasformata di questi tempi, ma come è stata trasformata anche allora, perché ironia della sorte amara, il grande motivo di cultura di ellenismo e di Grecia antica, che veramente è qualcosa di fondante per la cultura anche nel contemporaneo e oltre, quando arriveranno i romani, quando arriverà il cristianesimo, le olimpiadi saranno abolite, saranno completamente fermate, no? I giochi sono blasfemi, i giochi sono completamente vietati. Vi ricorda qualcuno questo integralismo? Che non arriva De Coubertin, che farà le Olimpiadi moderne. Mercoledì sarà l'ultimo motivo di incontro per l'Open Desk, che mi ha dato tanta gioia e tanta soddisfazione, tanti amici, tante amiche, un grande abbraccio. Io non sono uno che esce molto, quindi avere questo mio entusiasmo e un po' la voce spezzata è perché grazie a Binario 69 si è creato veramente al Comini Express un ambiente molto accogliente, molto bello, buona musica, si sta insieme, e ho pensato che mercoledì, per chi vuole, per chi può, ci possiamo salutare dal vivo. Non sarà una prima colazione, però è mercoledì 31 luglio, l'ultima puntata dell'Open Desk. Aspetto Domenico per consegnare il libro di Boileau Narcejac. Poi aspetto anche Jarno, così lo saluto, aspetto tutte e tutti ovviamente. Però giustamente a chi ha partecipato magari porto una sorpresa. Avrò più libri che dischi, ecco, quello è molto facile che possa succedere. Intanto i dischi li porto anche al Breakfast Club con la formazione Coccolo. Tra poco torniamo in diretta perché devo raccontarvi tre aspetti, tre particolarità che ci sono in ambito di competizione. Già dai tempi degli antichi greci queste particolarità venivano così identificate in tre idee diverse, e le scopriremo assieme tra poco. Allora, l'idea del gioco, prima di arrivare ad esplorare le origini mitologiche delle Olimpiadi, fermiamoci un momento a riflettere sul concetto di gioco, dato che a questo necessariamente, da questo dobbiamo partire. È un articolo, è un long format bellissimo di Raffaele K. Salinari, in cui dà tre specificità. L'agon. Agon già dalla radice di questa parola, agonismo, no? Gioco di competizione secondo regole stabilite, cui valgono le capacità individuali e di squadra nel raggiungere il miglior risultato. La vittoria, le regole condivise e equanimi servono a dare a tutti, in linea di principio, la stessa possibilità di riuscita e preconizzare una parità di partenza. In questi giochi competitivi, sia a livello fisico ma anche mentale, la molla del partecipante è quella di vedere le sue abilità riconosciute, premiate e superiori. Questo è per quanto riguarda l'aspetto agonismo. Dopodiché abbiamo altre basi che portano alla vertigine, letteralmente gorgo, ilnx, ad esempio l'altalena, o più in generale le attività legate alla vertigine, che abbinate al travestimento, all'arcano, sono la base di rito di possessione e di iniziazione in molte civilizzazioni tradizionali antecedenti, e sempre con il conflitto da quelle regole di leggi sociali e politiche. Insomma, è la vertigine, è tutto quello che può essere uno sport che porta qualcosa, che mette anche a repentaglio la sicurezza, non so, il parapendio, ecco, mi è venuto in mente il primo, ma ce ne sono diversi che sono pericolosi, però travolti da questa vertigine, da questa ipnosi di mettersi alla prova, questo è un altro aspetto legato al gioco, tra virgolette, che veniva preso in considerazione nel definire l'aspetto di Olimpiade, di gioco, di competizione. Ecco, quello che porta a un essere perturbato anche emotivamente da questo pericolo, ma non importa, perché l'importante è raggiungere quell'obiettivo, quel salto, quell'oltre, quella, esattamente come è tradotta questa parola, in vertigine. E poi c'è un altro aspetto anche in ambito di gioco. Abbiamo trovato la vertigine, l'agonismo, e poi ce n'è un altro, il rischio. E il rischio è molto particolare. Questo è il rischio nello sfidare il fato. Abbiamo parlato di diverse discipline, no? Nell'agonismo, ok, tanto quello più diffuso, nella vertigine, quelli anche pericolosi. Nel rischio è quello di sfidare il fato. Se giochiamo a dadi, ecco, per dire, chi fa il numero più alto a dadi, qui non è più il talento, non è più il battere l'avversario direttamente, come l'avversario non ha più talento se batte noi. In questo caso noi giochiamo contro il destino, giochiamo contro il fatto. And where we're going when time comes for splitting, sand's being dug on the red clay. Moving, always moving. Morning, midnight, sleep tight. Someone's playing something on backstage. The happy faces look out of the windows. Always something good on the red clay. Thank you. Clay, trombettista, qui Randy Brecker alla voce, invece troviamo un Mark Murphy ispiratissimo. L'aura di concordia olimpica si spiega con la nascita stessa della civiltà, sistema di diritti e di doveri. Quindi una grande nobiltà, e poi vediamo questa nobiltà come l'hanno trasformata sapientemente per tutto ciò che è interesse, strumentalizzazione anche politica ed altre situazioni che poco ha ben che vedere con lo sport, ed è un aspetto che veramente mi allontana tantissimo in questo caso, ma studiarne le radici e la cultura ho scoperto, ma già insomma ho questa sensazione molto affascinante. I mega eventi sono meteoriti destinati a annientare l'equilibrio climatico. Giocare col pianeta è l'articolo a pagina 2 di Luca Pisapia, perché vomitando inutili colate di cemento. Ecco, piuttosto, invece di indignarsi, ma questo certo non sono motivi di osservazione che coinvolgono certe realtà politiche, anzi certe realtà politiche sono ben contente che ci siano queste invasioni di cemento e questa distruzione per... No, piuttosto attaccano una rappresentazione d'apertura. Sì, può piacere, uno può esserne più, ma guarda te cosa hanno fatto, ma pensa a te, certo può essere più o meno critico dal punto di vista artistico, ma il contenuto secondo me è stato bellissimo, ecco, poi attaccarlo in quel modo lì veramente qualcosa di oltre che ridicolo, hanno dimostrato un'ignoranza totale per quanto riguarda la rappresentazione di apertura, mentre invece giocare col pianeta, i giochi raccontano la fase di compressione del tardo capitalismo finanziario, ecco, questo porta motivo di preoccupazione, di arrabbiatura piuttosto che, e la geopolitica olimpica tra i conflitti. Lo sport da tempo è diventato per alcuni paesi il terreno di scontro per affermare il proprio prestigio sullo scacchiere internazionale, avanti spettacolo dei giochi di potere. In quale contesto geopolitico si svolgeranno le Olimpiadi di Parigi? Rispetto all'ultima edizione che si è svolta a Tokyo, due sono gli avvenimenti su scala mondiale che peseranno politicamente sui giochi olimpici. La guerra Russia-Ucraina e la carneficina in atto nella striscia di Gaza. Il CIO, il Comitato Internazionale Olimpico, nonostante abbia bandito ogni partecipazione degli atleti russi e bielorussi, cosa c'entrano poi in tutto ciò? Non lo so, dalle manifestazioni sportive internazionali è consentito però a loro di partecipare a titolo individuale all'appuntamento olimpico di Parigi. Gli atleti sfileranno sotto la bandiera del CIO e non potranno indossare le maglie della nazionale. Inoltre, in caso di medaglia, sul podio non potrà essere suonato l'inno nazionale. E a proposito di divise e a proposito di inni nazionali, tra un po' ne sentiremo delle belle. Un po' di musica, pubblicità, poi torniamo in diretta per questi magazine speciale Olimpiadi 2024. A tra poco. Keep still, I love the way you make me feel. Cinque anelli olimpici hanno dei colori che rappresentano i cinque continenti. Allora, l'azzurro è il mare dell'Oceania, il nero è il continente nero dell'Africa, il rosso gli Stati Uniti d'America, il giallo è l'Asia e il verde è l'Europa. E poi i colori delle divise. Qua vi è la foto, anche se non erano olimpiadi, ma è sempre una competizione internazionale in Cile, è la Coppa Davis con Adriano Panatta e la maglia rossa ha scelto di giocare, anche se volevano boicottare questa finale. Lui disse: no, io la finale non mi importa perché lo sport è un'altra cosa, però io indosso, e non era certo sto gran compagno Adriano Panatta, però io indosso la maglia rossa. E sappiamo bene noi cosa rappresenta, no? Il rosso, il colore che nel cuore ci sta, mi piacerebbe pensare. Beh, adesso non voglio fare il vetero, che peraltro sono. Comunque, a tale proposito, per quanto riguarda questa importante finale, che gli azzurri, poi spiegheremo anche gli azzurri, beh, in questo caso vestirono il rosso proprio per dire: no, noi giochiamo, ma non siamo con questo governo fascista, tutt'altro. Beh, Pinochet, sapete che ha fatto? Ha trasmesso la finale in bianco e nero, nonostante la diffusione del colore fosse già scusate, ampiamente portata dalla tecnologia. Ecco, per dispetto fu trasmessa in bianco e nero. Beh, però, ecco, questi sono gli aspetti che portano un tonale, un cromatico anche nello sport. Gli azzurri. Beh, io anche in questo caso non ne sono molto, non approvo questo colore, perché era il colore dei Savoia. Sappiamo bene, i Savoia hanno aperto la strada per la marcia su Roma, portando quello che poi è successo nei 20 anni a seguire o circa. Dopodiché, al momento della caduta e al momento dell'armistizio, da veri vigliacchi hanno visto di fuggire. Quindi avere questo colore sabaudo non è che faccia una gran bella mostra di sé per quanto riguarda la penisola. Però tant'è, il colore azzurro dell'Italia. Ma tante sono le realtà cromatiche che hanno delle particolarità storiche, alcune vengono riprese anche qui. Il colore ha origini sabaude, in quanto è del XVIII secolo. Il vessillo su cui campeggia lo scudo rosso crociato della Real Casa, e così resta fino ad oggi, solo con l'aggiunta dello scudetto tricolore su ogni divisa. Però che lo sfondo sia azzurro, insomma, io non l'ho presa benissimo. Spero che ci sia anche motivo di cambiamento per quanto riguarda tutto ciò, ma non credo, perché ormai è così forte e così radicato che si procede in questa colorazione. Oggi torniamo a chiederci se l'azzurro degli atleti viri maggiormente in base a quelle che sono le tonalità, il blu, il celeste, il turchese o altro, ma al di là del tifo, riflettiamo anche sull'azzurro come, ecco qui in maniera più edulcorata, l'azzurro come del cielo, l'azzurro come del mare, di cui insomma la nostra penisola ne ha con le bellezze naturali ben che a rappresentare: la creazione, la pacatezza, l'idealismo e persino la trascendenza. Conclude così a pagina 12 Le maglie, il colore azzurro dell'Italia. Oh, I've known rivers, I've known rivers, I've known rivers in the north and the south, I've known rivers in the east and the west, I've known rivers all over this world, I've sailed some and seen the rest. I've known rivers, I've known rivers, I've known rivers, ancient dusky rivers, and my soul has grown deep like the rivers, rivers, rivers, rivers, like the rivers. Non importa se non portava grande talento in ambito di agonismo e di sport, ha rappresentato veramente tanto, è una campionessa sempre e comunque, e non è retorica, perché Alice Milliat, definita la pioniera, ha portato la presenza femminile alle Olimpiadi dal 1928. Abbiamo, non eccelleva in nessuna di queste discipline, il canottaggio, il nuoto e l'hockey su prato, aveva queste tre discipline, ma in un periodo nel quale sorgevano i primi movimenti femministi colse in pieno il potenziale liberatorio dello sport. Rimasta vedova prima della guerra, tornò a Parigi, dove si impiegò prima come traduttrice, continuando l'attività presso il neo istituito Club dello Sport. Il conflitto scardinò le consolidate relazioni di genere, favorendo un più deciso protagonismo femminile nella società, e lei, Alice Milliat, ne approfittò per scalare le gerarchie degli organismi sportivi, e nel 1919, pensate, ottenne la presidenza della Federazione Sportiva Femminile di Francia, una vera pioniera e importante perché sia uno sport per tutte e per tutti. Siamo nel 1919. Precisamente Alice Milliat può essere considerata un esponente molto forte di un femminismo d'azione, e non solo per lo sport, visto l'epoca e visto l'importanza dei contenuti. Sempre Alias a pagina 15, è un numero bellissimo, ne dà un approfondimento. E poi concludo, prima di parlarvi della prima pagina del Sole 24 Ore, anche questo: l'importante è partecipare, bellissima frase, tra l'altro riportata da De Coubertin. Però ci sono ombre anche sul barone, ombre nere purtroppo. Una serie di recenti studi e pubblicazioni hanno rivelato i rapporti tra De Coubertin, fondatore del CIO, e il nazismo, tali che nel 1936 la Germania hitleriana gli promise addirittura di candidarlo al premio Nobel per la pace. Sapete come nasce l'idea di questa è veramente di portare prima della competizione l'inno nazionale. Una risposta durante l'importante torneo del Sei Nazioni, siamo nel 1905, è il Sei Nazioni, la nazionale di rugby della Nuova Zelanda era già ovviamente lo squadrone che noi conosciamo, e sapete che invece di portare l'inno loro hanno questa danza maori tradizionale molto particolare, molto intensa, molto sentita, anche molto bella. Il Sei Nazioni allora era giocato solo dalle nazionali britanniche e irlandesi, e dunque l'interesse per l'incontro era molto alto, sì, perché già allora i rugbisti della Nuova Zelanda erano soliti eseguire la haka, la danza di guerra tipica dei Maori. Pare che a quei tempi fosse interpretata in modo meno teatrale e minaccioso, però sufficiente a impressionare pubblico e giocatori avversari. I dirigenti della federazione rugby gallese, il Galles appunto è l'avversario, si resero immediatamente conto della forza della haka, assistendo ad alcune partite della tournée britannica. In vista del match a Cardiff, quindi c'è lo scontro in Galles tra Galles e Nuova Zelanda, beh, loro cosa propongono? Perché noi non portiamo una grande orchestra e facciamo il nostro inno nazionale? Beh, decisero così di aspettare che i neozelandesi avessero finito per poi cantare il loro inno nazionale, che in gaelico significa la vecchia terra dei miei padri. Prima la squadra e poi in modo spontaneo in coro tutto il pubblico presente intonarono il brano. Allora immaginate 40.000 persone che cantano l'inno nazionale con tutto il fervore di cui sono capaci. È stato il momento più impressionante a cui abbiamo mai assistito su un campo di rugby, raccontò poi il capitano del Galles Dave Gallagher, e anche il capitano degli All Blacks Paul Harrison disse di non aver visto mai nulla di simile. Per l'epoca fu un evento eccezionale, perché sino ad allora gli inni erano eseguiti solo in circostanze solenni. L'effetto che ebbe contribuì a diffondere questa usanza e farla diventare una prassi. Nazionali sono qualcosa di allucinante. Grazie al diffondersi dei grandi eventi sportivi, queste composizioni, un tempo relegate al singolo paese e alle sue cerimonie, sono diventate note ovunque. Sono testi zeppi di riferimenti storici tesi a esaltare il coraggio e la forza della propria nazione. È già qua. Ma come? Celebrando violenza, sangue e vendetta. E pensate che anche l'Italia, nell'inno di Mameli, accusa l'Austria non solo di far scorrere il sangue ma anche di berlo, salvo poi venirne avvelenata. Il sangue polacco bevè col cosacco ma il cuor le bruciò, si rifà poi a un evento che è stato strumentalizzato e poi accadde più avanti, quindi è stato, diciamo così, predetto nel testo di questo brano. Non amo il testo dell'inno, perché è veramente qualcosa che di più fascista, secondo me, parere personale, per cui non voglio, però all'epoca l'Austria era il nemico, si estendeva molto all'impero austro-ungarico, e in Polonia c'erano i primi moti di ribellione, divenne un esempio la Polonia, no? La Russia, lo zar andò in aiuto all'Austria e da qui il riferimento insieme al cosacco, il sangue polacco, ma ne restò avvelenata appunto poi in seguito con quello che successe e che ben conosciamo, e qui viene ripreso nell'inno di Mameli. Anche la Gran Bretagna: disperdi i nostri nemici, falli cadere, manda in confusione la loro politica, rendi vano i loro trucchi da furfanti. All'inno della Turchia va invece la palma del testo più splatter: lacrime di sangue sgorgeranno da ogni mia ferita e il mio corpo senza vita sorgerà dalla terra. O patria, per te verseremo il nostro sangue, e i francesi possa il sangue impuro irrigare i nostri solchi. Ma ce ne sono tantissime, la strada che porta alla gloria è lastricata di cadaveri dei nostri nemici. Ecco, questi sono gli inni. Però ce n'è uno più bello, ecco, ed è scritto dal rivoluzionario marxista che è stato presidente del Burkina Faso nel 1983. Ovviamente fu assassinato nel 1987. Sankara, chiamato il Che Guevara africano, rappresenta una singolare figura di militare, politico e uomo di lettere. I testi inneggiavano alla pacifica convivenza tra i popoli, ma quello che speriamo di sentire a Parigi del 2024 è l'inno nazionale del Nepal. Sembra un po' una canzoncina da recita scolastica, ma non ci deve lasciare ingannare. È uno degli inni più politici di tutta l'Asia, visto che esalta le differenze razziali, linguistiche e religiose e culturali del Nepal, ed è definita nazione progressista. Coltrane, dal disco Soul Train, un brano che tra l'altro riporta You Say You Care, ed è titolo molto bello, oltre che la formazione nel suo periodo hard bop per la Prestige. Ecco, questo è già più, mi riconosco più in queste note. Yeah, che genio, che talento. Il fuoco del jazz rinasce sempre dalle sue ceneri. Prima pagina della Domenica del Sole 24 ore, c'è una discussione in atto sull'identità di questa musica spugnosa che muta pubblico, contesto, ragion d'essere, le riflessioni di un protagonista che la pratica, la diffonde. È l'articolo di Paolo Fresu, molto bello, per comprendere qual è il legame bisognerebbe andare a ritroso ascoltando le opere di chi ha popolato e impreziosito la storia della musica afroamericana, che ha sempre dimostrato di essere spugnosa e capace di scrutare nel presente. Negli anni 90 il cambio di pelle si stacca dalla matrice statunitense e trova terreno buono nelle culture europee. Stupisce pertanto la ritrosia di alcuni nell'accettare il cambiamento, a voler pensare che tale stile, posto che una parola di sole quattro lettere possa contenerne uno solo, sia morto con Parker e Coltrane. No, anzi, loro ne hanno dato il via, con tanti altri, fra l'altro, con tante sensazioni, senza ammettere che quest'arte contemporanea incarna per antonomasia un cinetico movimento umano e raccoglie la spugnosa curiosità esattamente del meticcio. Chiacchiere, musica, Olimpiadi a questo magazine per la ultima puntata stagione 2023-2024. Domani in Groove avremo anche un ospite in diretta nella seconda parte. anche in questo caso tanta musica nel nostro incontro tra parquet e filosofia, quindi dalle ore 7 il Breakfast Club, penultima puntata di stagione, domani vi aspetta. Io vi ringrazio per l'attenzione, per aver fatto colazione sui 103.1 con il Breakfast Club, vi auguro un buon inizio settimana a tutte le super mattiniere e i super mattinieri dei 103.1. Vi lascio in buona compagnia col pianoforte di Red Garland, il sax di John Coltrane e tra pochissimo con Liberi Dentro dopo la pubblicità. La rassegna stampa è dalle 9.30. Mi raccomando, a colazione domani alle ore 7 e nonostante il caldo, con un caloroso abbraccio io mi congedo a voi dal vostro William Piana. Un buon ascolto e una buona giornata. Ciao a tutte, ciao a tutti.